chi? Come i pinocchi, eh? Però anche un po' stagni dopo. Oh, questo è bella. Cosa? Che bella? La connection. La connection. Ciao! Let it come, right?